Restiamo in campo semantico. L'onorevole D'Onofrio, naturalmente, non è il solo a usare i termini tradizionali della politica con una certa disinvoltura creativa. Per esempio, non so se vi è capitato sott'occhio l'augurio rivolto al nostro Presidente del Consiglio dal colonnello Gheddafi in data mercoledì 1 giugno. Se vi è sfuggito, non preoccupatevi, era sfuggito anche a me. Ci voleva l'occhio di falco della Cami per individuarlo, sepolto nel testo di un articolo che si intitolava Berlusconi adesso spara su Bossi, la parenti all'antimafia non si discute, un bravo a fini, a pagina 2 del Corriere della Sera del giorno dopo. Capirete, era il giorno dell'arrivo di Clinton in Italia e la nostra classe dirigente, che tutta intenta a scodinzolare attorno al Grande Fratello, non avrà certo desiderato dare eccessiva evidenza ai messaggi d'auguri di colui che la segreteria di Stato americana considera tuttora un nemico pericoloso, ispiratore di quasi tutto il terrorismo internazionale e responsabile di non ricordo più quante efferatezze, e i giornali si saranno prontamente adeguati. Personalmente, vi confesso, io non sono sicurissimo che il colonnello sia tanto cattivo, o perlomeno che sia tanto più cattivo della media di quanti esercitano il potere nel terzo mondo e dintorni.